com'è andata? È andata. È meglio che andia, Natali. Meglio così, dai. Sono contento. Capa, vabbè, c'ho l'apparato piccolo, si è fondo a scala praticamente. Paga, ma te lo metti anche nel mezzo? E l'autobus lo metti pure? Lo metti anche nel mezzo che guidi? Ho detto, se lo metti anche nel mezzo che guidi? Guarda adesso. MB più 5. Adesso ho abbassato, faceva troppo forte. Bene così la cosa, esatto, se per quel baracchinetto tuo. Quello piccolino che usano, non sta lì. KK. Canale 10 occupato. Stanno fischiando, anche se il canale è occupato, stanno fischiando. No, non sento l'audio occupato. E forse il QRM non gli permette di ascoltarci e non ci ha sentito, dai. KK. Comunque tutto ok, l'itinerario lo conosci già, dai. Dopo quasi 2 chili sono da valere, non so come itinerario. Gianni? Avanti! Ti ascolto male, basta l'FM. Sto parlando con Natalino, non lo so, Natali ce l'ha l'FM. Ehi, già ce l'ho. Io facciamo l'FM, va? Fabio! Claudio! Mi senti, Natali? Ehi, che ti sento! Forse è chiaro qua, senza QRM. Ehi, ya! Cazzo, ma che cazzo! Perché? Io sono molto pazzo! Non so cosa dirti. Sta andando la batteria, dai, ho capito, non c'è più batteria al microfono. Ehi capo, perché ti ascolto molto, molto basso. C'è, chi c'è? C'è Natalino Alfa 1, un attimino dai che attaccare qualche altro apparato, perché questo qui c'è la batteria consumata. Hola, hola! Consumata, è bassa. Ciao qua! Natalino! Oh, Nara! Attenzione, Natalino, Alfa 1. Va bene, mi ascolti. Io già ti ascolto, Natalino, non so se ascolti me. No, Claudio forse non mi ascolta. Oh già, negativo da parte mia ascoltare Natalino. Natalino ti ascolta, non è Claudio, è... stato del professor Torres. Ah, forse per quello, però ora Claudio, va. Ah, è sbagliato di molto, perché l'apparato era quello suo. Ok, va bene, non c'è problema, va. Io ti ho ascoltato bene comunque. Sono al bar Graziella, va. Ma io adesso bene sto uscendo o male? Bene stai uscendo. Dice che mi ascolta basso, Sandro. E allora non è la batteria. No, e adesso la batteria è fondo scala, canoga. E Sandro, sempre male mi ascolti. Ti ascoltavo meglio di modulazione, ho già. Ti ascolto e passa. Riesco, dicevo, ad ascoltarti, però è bassa come modulazione. Ma bello! Poi ha. Tu adesso dove sei, in AM o in FM? In FM? In FM dovrei essere, io non ho toccato nulla. Andrò. Perché Alessandro lo sento fuori frequenza, spissà che lui sta uscendo male e pensa che stia uscendo male io. E io infatti lo sento malissimo, non male, no, malissimo, a Sandro. Lo chiudo io, ma mi sa che lui ha l'apparato che c'è qualcosa, che vuole settarti, vado, va. Infatti, avrà qualcosa che non va, perché io lo ascolto malissimo, e poi a non ascoltarmi lui a me mi pare strano. Andrea ha fatto forte, se... Questo cara Woody. Ascoltavamo tranquillamente io e tu, ma tutti e due in macchina addirittura. A voglia. Una volta quando andavi in quell'associazione là, te lo ricordi che entravi presto e aspettavi, compagnia vicino al Porto Torres. Infatti mi sembra strano che lui non mi senta. Magari è fuori frequenza, io a te ti sento benissimo. Anche io poi qua è una telefonata, qua che non so perché non usiamo l'FM al vivo, è una telefonata di lusso. Cioè lo squelci non mi posso, sto guidando e non posso regolare, addirittura sarebbe stata una telefonata veramente. Infatti, basta che apri lo squelci, come ho fatto io, quel chatto sino a quando tu me lo apri. Infatti, poi Zanca, siamo arrivati alla rotonda di via Giovanni Pascoli. Tra un po' mi metto le gambe sotto la del tavolo che... Aspetti a tornare, ma rientri a pranzo e poi torni la sera o no? No, finisci. Oggi finisci. Per oggi, domani alle 5:30. Parla, alzarmene. Cavagava. Che orario fai, Natalino? Alle 2:10 finisco praticamente. Poi se alle 7:10 alla modista, cioè alla ciaccia, sto con questa gente qua a Valle d'Oria e poi da Valle d'Oria comincio a fare il servizio. Ma il pulmino da dove lo prende? La ciaccia? No, da Valle d'Oria. La ciaccia cosa vuoi a fare allora? Prendere quegli studenti che ti ho detto e li devo portare a Valle d'Oria che partono con l'altro Puma per Sassari. Allora, quello lì è scuolabus, poi fai guidi anche il coso, il policino. Quello lì è scuolabus e poi anche navetta, è una navetta, non è uno scuolabus. Ecco, parla per gli studenti, là, quello che porta gli studenti è lo stesso. I vigili c'erano, che? L'ho visto. Ho mollato il macchio, sa che mi filmava. Stamattina hanno fermato i carabinieri a me a Porto Torres e praticamente mi sono tolto il portatessera, quello che usiamo noi, quello dei carabinieri, che però c'è il distintivo della protezione civile, no? Ho detto, scusi, mi fa vedere il portatessera. Fatto vedere. Sembrava qualche cosa di assomigliante, è uguale al nostro, e lo so, ognuno ha il suo, con lo stemma suo, poi carabinieri, polizia, guardie giurate, eccetera, eccetera. Io c'ho il suo stemma. E infatti, ce l'ho anche io quello lì. Ci già l'antenna si danno i trasmettenti. Io oggi ne ho visto una a Portottore, se mancavi, si sono sbattute due macchine. La tipa se ne è scesa per guardare i danni, era inchinata guardando, quello lì è andato avanti, poi è tornato di nuovo indietro, non so cosa gli sia successo. E non capiscono già chi si avvenne. Poi va avanti e la investe un'altra volta. Alla fine hanno dovuto alzare la macchina di quello lì perché l'ha lasciata sotto le ruote, una ragazza giovane. Vabbè già, io ti saluto che praticamente ho trovato il parcheggio qua, anche se lontano da casa l'ho trovato. Ci sentiamo alle prossime. Alla brava, adesso che c'era in macchina ci sentiamo. Ciao Natalice. Natalino, fai la brava. È un bel male però, Ah, sobbasso. No, quasi non stai uscendo, Massimiliano. Sì, per intenderci una radio di uno. Di uno? Così? Prova. Adesso la radio è aumentata ma non è chiara. No, sei fuori. Massimiliano, non sta uscendo bene in FM, ecco perché non ti sentivo. Che è male? Adesso è più forte ma vuole chiarificata la radio perché sta come strappando. Allora, forse è troppo. Allora, se lo sto diminuendo. Allora, non ci siamo. Allora, aspetta anche io, mi sto ascoltando. Allora, vediamo un po'. Allora, quelli che usano per filmare dall'alto eccetera eccetera. sono le due camere, ma in mezzo no. Davanti. No, è sopra, c'è sopra. È divertente. E poi ci vuole spazio, ci vuole. Una volta ho portato piazza ai segni, però casino, perché poi dopo. Se secondo una volta ho portato al parco di Venezia. Ma c'erano i bambini quanti apprezzano un bordello, guarda. E dove devi andare? Io di qui. Vai al parco di Monserrato, dove c'è l'erba verde. Ci sono dei petti senza alberi, eccetera, dove vanno a fare le fotografie, gli sposi, eccetera, eccetera, lì. Ti trovi un bambino, io ho provato con l'elicottero e ci siamo trovati da lì, facciamo anche a farli volare lì. E l'atterraggio avviene tutto tranquillo, quello placido, tranquillo, là. Non è che ci siamo impatti grossi. Mentre invece Piazzale Segni c'era tutto il pubblico, una volta l'avevo portato fino in alto, poi non sono riuscito più a riprenderlo. Andavo a riprenderlo e deve essere la frequenza non ci arrivava, che cazzo ne so. E onde non arrivavano e qui si fa da piccolo e c'è tutto sgabinato. Vabbè, è un bordello, ma è a coppia o è elettrico? È l'angusta dei carabinieri. L'angusta dei carabinieri elettrico, quello di quelli che durano anche mezz'ora, la batteria, eccetera, eccetera. Tutti di vecchi. Ho capito. Allora sì, cosa ne oggi? Questo siete da un segnale molto più basso. Non più così bisogna dire, strano. Più basso il segnale. Tutto stava dalla lontana, ferma, perciò non posso neanche dire che si vede la sta muovendo il vento. No, ti sento ieri ti sentivo molto più alto. Dove sto? Provo a vedere adesso, 1, 2, 3. Ma di radio di Santiago? Adesso si è aumentato sia di radio che di Santiago. Non ho fatto niente, Santiago non ho fatto niente, ho aumentato il volume della radio. Vabbè, spinge un po' di più, allora aumenta anche di conseguenza il segnale in uscita. Quanto ti sta arrivando il segnale, Massimiliano? Allora, 5-6 come segnale, però la radio adesso è perfetta, è molto più alta. Mica, ti siamo a due passi, è un bel basso segnale, io ci stesso, non te la me ne farò. Ah, sono io. Sono due parti, però ti tieni conto che io sono l'antenna è sul balcone, capito? Non è aperta. È aperta nella zona est-ovest nord, praticamente est-ovest nord, quella con 180 gradi, gli altri sono tutti coperti. Siccome tu sicuramente sei nella parte del quadrante sud, lì ce l'ho coperto perché diciamo il palato che mi fa da schermo. Secondo me ecco, quello, l'antenna è quella che la dovrei tirare per i 10 metri o per gli 11 ancora meglio. Magari tende a aumentare un po' di più il segnale sicuramente, perché adesso è tirata per i 40 metri, però la sto accordando con l'accordatore e perde tantissimo. Quello si può disegnare sì. Quella corretta lì dalla metà dei watt. Beh, è normale. Io quando ti arrivo il segnale. Va. Provamo 2, 3. E tu sei 8, dai. 8 e mezzo, radio 5. Mi arrivi più forte tu, che strano. Vabbè, sono 120-130 watt. Vabbè, questi qui sono 4 watt proprio puliti, perché ti spiego, come sto facendo il mobiletto, c'è tutto smontato, sto uscendo con un baracchinetto così, tanto per non dire che non uso, va. Vedi, sicuramente se metti un po' più di vantaggio, sicuramente anche tu ne arrivi più forte. Quando noi andiamo a parte, cioè che ne arriva a forte, è Luca, Salvatore, per il momento è proprio che sono ritorno. Cavi mi arriva tanto, ma è normale, ma è colpa mia perché c'è l'antenna per terra. E aspetta quando piace la stazione io. Ma da fuori, riesco a montare qualche antenna sul tappeto e ho tutto libero, 360 gradi, però anche il mare da qua, perciò mi stavo lavorando prima, sono molto così in alto e poi non ho ostacoli, ma da lì già dovrebbe andare tranquillamente bene, dovrebbe ricevere bene e trasmettere anche bene soprattutto. Voglia. Però dove mai qua sei favorevole, sia per Alghero, sia per Porto Torre, sia per la zona di Badiglio, per la zona lì, da Costa Paradiso, già tutto fatto quella zona lì. Però ti stavo dicendo, ma tu sei a sinistra salendo o a destra? Salendo sono a sinistra, sto calato verde. Cappa. E ho capito dove vai. Ho capito, vicino alla macelleria, c'è lì. Esatto, qui c'è la macelleria, qui c'è la, vabbè, lì questa di fronte, però un po' più su sono. E io sono sull'ultimo piano, sta qua vedo solo il corso della Ginara, tutta la parte industriale di Porto Torres, soprattutto c'è una vista allucinante. Infatti già il fatto che così riesco a lavorare, a fare qualche cosa, con l'attenino messo sul davanzale della... il balcone la dice tutta. Sono ancora più alto di te. Io sono di fronte a Torrella, ce lo ricordi la buona anima di Torrella dove abitava? Io sì. E io sono dietro, praticamente dietro di lui. Ma il palazzo mio dalla parte dietro risulta di fronte a lui, capito? Io praticamente abito via Mole, sì. Ho capito dove la mostra laggiù. Non si arrivare molto più forte allora, un po' trovato. Perché c'è una falda qua di una palazzina là. In Valli, in Mega c'è il problema. Ti dovrei sentire voi molto più forte. Quindi sono domiciliato in via Pasco Rioni. Come fate a venire lì? E anche più coperto. Claudio, dammi un controllo di segnale per cortesia, perché tu mi stai dicendo che sto scendendo basso, boh. Quindi facciamo l'antenna di tratti per baracchino dei cinesi, 9 più 30 radio 5. Cappa, sto scendendo con 4 watt, col Midland, non è che sto scendendo. Ah, vabbè, allora non c'è nulla, l'interessante è quello. Non c'è assolutamente niente. Ho detto Massimiliano, guarda che io c'ho un domicilio che a Pasqua io. Quindi farà bravo, perché ci metto poco a smontare un'antenna e venire via. Non si sente ancora più forte. Ciao Claudio. Ma lo stavo dicendo. Io con l'antenna messa nel balcone, che poi più che l'antenna è una resistenza, anche fin troppo che sta spostando. Però mi stava dicendo dove è lui. Dovrebbe tutto sentire un po' più forte, magari quei 4 watt magari sono anche un po' ridotti, in antenna mi arrivano un paio. Sicuramente magari per quello lì, Claudio, è normale che si sente più forte, anche mettendo l'antenna sopra sul tetto sono sicuro che riuscirei a sentire segnali molto anche più forti, non sarebbe normale. Chissà. Non è un problema, provate a farci sentire. Tanto per me, mi arrivate la Lunis, la V908, c'è il connettore Massimiliano Iaeso, I come Kingwood. Non ne va bene uno, né nella IAESO, adesso lo sto provando, nella ICOM va bene, nella IAESO e Kingwood non va bene. Ma dimmi tu, perché mi hanno mandato due connettori e non vanno bene IAESO. Connettore IAESO, innesto IAESO non va bene. Magari c'è un altro tipo di connessione interna. Grande gioco. No, io non mi tocco. Adesso chiamo loro, mi faccio mandare il capo IAESO. Capito? Il capo IAESO, perché dice che questo è IAESO ma non è IAESO, mi scatterò un po' le palle, se non va bene con 950